chiunque abbia visto il signor Pardo è pregato di avvisare la direzione. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Again, only one group which is open, and it is Group D. So we have Juventus, Manchester City, Sevilla, and Borussia Mönchengladbach. Dobbiamo partire da un concetto: siamo la Juventus, non dobbiamo temere nulla. Per cui affrontiamo tutti gli avversari nel modo giusto e faremo risultati. No, ottimismo nasce da un sano realismo, cioè dobbiamo assolutamente partire con la consapevolezza di dover superare il turno, ci mancherebbe che partiamo in questo gironcino consapevoli di essere eliminati, e credo che non esiste un concetto del genere. Group E, Barcelona, Bayer Leverkusen, Roma batte Borisov. Siamo qui per giocare contro le migliori, quindi giocare contro i campioni d'Europa deve essere considerato un onore. Ovviamente è una partita difficile, ovviamente è l'avversario più forte del girone, ma insomma ci mancherebbe che non ce ne fossero. Poi è difficile valutare le partite prima, bisogna giocarle, quindi oggi possiamo dire che il girone è alla portata della Roma, ma quello che diciamo oggi vale poco, lo dovremo dimostrare in campo. Sì, ha ragione Marotta che non bisogna temere nulla, però è vero che peggio di così l'urna di Monte Carlo di ieri per la Juventus non poteva andare, è andata un po' meglio alla Roma, però ci aspetta sicuramente una prima fase della Champions League in cui le nostre italiane dovranno davvero guadagnarsela sul campo la qualificazione alla seconda fase, agli ottavi di finale. 8-0-0 24 0-0 24. La mia impressione è che alla fine possano anche farcela tutte e due, però sarà dura e soprattutto credo abbia dato delle indicazioni di mercato importanti anche per questi ultimi 3 giorni e 10 ore di trattative. A proposito, pochi minuti fa la notizia che l'Inter ha chiuso finalmente il tormentone per Perisic. Perisic tra poche ore sarà un giocatore di Mancini, operazione da 20 milioni di euro. I contorni cercheremo di definirli in questa ora che passiamo insieme, perché pare sia un trasferimento a titolo definitivo, così come volevano i tedeschi del Wolfsburg. 8-0-0-24-0-0-24. Partiamo però dalla Champions. Poi fra qualche istante vi do anche i gironi dell'Europa League delle italiane. Saluto intanto Enzo Bucchioni. Ciao Enzo. Ciao a tutti, ben ritrovati, buon pomeriggio. Ha ragione Marotta, Enzo. Se siamo la Juve non si può aver paura di Siviglia e Borussia Mönchengladbach. Sì, questo è in assoluto, non si può avere nessuno, non si deve aver paura di nessuno, però il girone oggettivamente, forse se guardi bene, è il più difficile di tutti. Il famoso girone di ferro che c'è in tutti i sorteggi stavolta è capitato alla Juve. Io credo che debba essere anche di stimolo questo sorteggio alla Juventus, che deve scucire un po' di grano, come si dice negli ultimi giorni, e fare quegli acquisti che mancano per completare una squadra che oggettivamente in questo momento non è perfetta. Abbiamo lasciato una squadra perfetta nella finale, o quasi nella finale di Champions League, e con il cambiamento di rotta, il rinnovamento, il giusto rinnovamento che c'è stato, è qualcosa hai perso di recuperarlo. Se non è Drexler sarà un altro, se non è Witzel sarà un altro, ma la Juventus questi due ruoli li deve coprire con giocatori importanti. Sì, lo scrive anche oggi Tutto Sport, il direttore di Tutto Sport, quotidiano che ovviamente ha un certo peso a Torino. Bisogna essere ottimisti e fiduciosi sull'esito del girone, ma a questo punto diventa imprescindibile prendere il centrocampista di alto livello, il centrocampista di qualità che la Juventus ancora non ha preso, anche perché Enzo, è vero che noi abbiamo nella testa che la Juve parte in questa Champions da finalista della passata stagione, ma la prima contro l'Udinese, ma non solo, anche l'estate delle amichevoli, insomma, aveva dimostrato che siamo ancora lontani da quella Juve. Assolutamente, abbiamo lasciato una Juventus che aveva una mentalità particolare. Ricordiamo che il lavoro di Conte è servito, non è che si possa dimenticare quello che ha fatto l'ex allenatore Riccitelli della Nazionale. un gruppo di giocatori con una grandissima personalità, una grandissima voglia, una grandissima grinta, e quella era la Juventus, se vuoi imbattibile sotto certi aspetti, dal punto di vista mentale, dal punto di vista caratteriale. C'è un cambiamento in atto, c'è un rinnovamento, c'è un ringiovanimento, e come tutti i cambiamenti ha bisogno di un po' di tempo. Dovrà essere molto bravo Allegri a riassemblare questa squadra nel minor tempo possibile, però un po' di tempo gli va dato, e soprattutto gli vanno dati dei giocatori di qualità, non ti dico pronti subito, però il più possibile. Se prendi i giocatori da squadre inferiori, penso a Zaza, ne penso con il miglior modo possibile, che sicuramente è un giovane di qualità, però non è pronto subito da Juve, ci vuole qualcos'altro, serve qualcos'altro per essere subito da Juve, o altrimenti bisogna dare tempo a Allegri, ma nel calcio il tempo non te lo dà nessuno, e quindi mi sembra che ai nastri di partenza la Juventus sia un po' indietro rispetto all'anno scorso, che poi è arrivata in finale con grandissimo merito di sicuro, ma anche per situazioni favorevoli, e poi le altre hanno speso molto di più, penso al City, che è proprio nel girone della Juventus. Sì, sì, City generale. Che per fare una battuta farebbe bene a comprarsi uno stregone, al quarto girone di ferro nelle ultime 5 edizioni. No, credo basterebbe uno stregone. Io oggi ho messo in fila i gironi dal 2011 a oggi, tutti i gironi di ferro, evidentemente a Manchester City non va benissimo, se noi ci lamentiamo a Manchester, io credo dovrebbero fare un viaggio a Lourdes. Vi do i gironi dell'Europa League. Allora, per il Napoli è andata bene, Napoli era testa di serie, ha pescato il Bruges, il Legia Varsavia e poi i danesi del Midtjylland, che sono quella squadra che ci ha fatto un grandissimo favore ieri eliminando il Southampton, dei nostri avversari inglesi, avversari per il ranking UEFA. Poi c'è la Fiorentina che ha pescato il Basilea, quindi Paulo Sousa tornerà immediatamente laddove ha allenato fino all'anno scorso. Poi l'Lech Poznan e i portoghesi del Belenenses. E quindi la Lazio, attenzione, un girone un po' più complesso, ma niente di trascendentale. C'è il Dnipro, che è finalista della passata edizione dell'Europa League, ma è un Dnipro profondamente diverso, che ha venduto tanti giocatori importanti. Poi ci sono i francesi del Saint-Étienne e poi i norvegesi del Rosenborg. Mi sembra che anche in Europa League, o meglio, che in Europa League non possiamo lamentarci. No, assolutamente, secondo me è un sorteggio abbordabile in tutti e tre i gironi delle italiane. C'è solo un problema per le nostre squadre, le deve affrontare queste partite con la necessaria concentrazione e convinzione. Abbiamo pagato negli anni scorsi quando abbiamo affrontato queste gare che sulla carta sono abbordabili con leggerezza. Ecco, questa lezione credo che sia servita, spero che sia servita, e se affronti le gare in un certo modo, come devono essere affrontate le gare internazionali, non dovresti avere nessun problema. Dicevi bene, le squadre ucraine sono in difficoltà per le vicende politiche, per la guerra che c'è stata, quindi hanno venduto molto. Il Dnipro non è più la squadra dell'anno scorso. Ha venduto Kalinic, che abbiamo visto quest'anno bene al debutto della Fiorentina, ha venduto Konoplyanka al Siviglia, o meglio è andato in scadenza di contratto, quindi è una squadra molto diversa da quella dell'anno scorso. La Lazio non deve aver paura. Tra l'altro a me la Lazio non è nemmeno dispiaciuta in assoluto, Bayer Leverkusen ostacolo troppo alto, ma credo che l'Europa League possa essere la dimensione giusta per la Lazio e in parte anche per il nostro calcio. Ma sì, assolutamente, devi partire puntando su tutte e tre qualificate per mille ragioni, per il nostro calcio, per soprattutto il ranking UEFA, perché abbiamo perso negli anni passati molti punti, ma appunto perché non l'abbiamo affrontato nel giusto modo, perché delle squadre sono state eliminate nel girone, e questo è stato un danno che poi ha pagato complessivamente tutto il nostro movimento. La lezione credo sia stata compresa da tutti. Il Napoli, la Lazio, la Fiorentina sono squadre assolutamente attrezzate, non ti dico per vincere il girone in assoluto, anche se dovrebbero puntare a quello, ma comunque per passare sono squadre nettamente inferiori, ne passano due, ricordiamolo, quindi problemi non ce ne dovrebbero essere. Poi c'è il solito destino che si mette in mezzo, se poi ritrovi il Basilea, Paolo Sosa, questi ricordi. Ecco, il Basilea mi sembra una squadra un pochino più difficile per la Fiorentina, però anche il Basilea non è più quella che ha lasciato Paolo Sosa, l'abbiamo visto in questi preliminari, quindi devo dire oggi più fortunato di ieri, sorteggio. Oggi decisamente più fortunato. Ti chiedo un minuto di pazienza, Enzo, perché poi chiudiamo il discorso sulla Roma e proviamo anche a proiettarci su domenica, ore 18, Roma-Juventus. A proposito, tutti convocati weekend, questa domenica versione speciale proprio per Roma-Juventus. allunghiamo di un'ora, non più dalle 17 alle 19, ma dalle 17 alle 20, con un inviato a Roma, all'Olimpico, per vivere insieme la partitissima della seconda giornata, chissà, magari l'anticipo della sfida scudetto tra Roma e Juventus. Avrete anche tanto spazio voi al telefono, ma poi vi dirò di alcune iniziative nel corso di questa ora. Traffico. C'è il traffico! Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Tutti convocati. Sempre con fiducia in ogni partita, ovviamente un rivale difficile, un rivale che conosciamo come loro conoscono a noi, ma trovarlo presto per la stazione non era una cosa prevista, ma siamo pronti, siamo con molto, molto entusiasmo, aspettiamo che tutti i tifosi saranno con noi. Questo è Zanzi a parlare di questa suggestione di Barcellona-Roma, che è la partita che piace di più del girone della Roma, che poi Enzo Bucchioni in realtà si risolverà, credo, in uno spareggio in 180 minuti con il Bayer Leverkusen. Sì, assolutamente, il Barcellona, inutile dire, non è a portata della Roma, ma lì di nessuno in questo momento delle squadre italiane, e quindi lasciamola fuori e puntiamo al secondo posto, perché se ne passano due, come sappiamo tutti, la Roma deve puntare a quello. Il Bayer Leverkusen, che abbiamo visto contro la Lazio, è una buona squadra, ma non trascendentale. La Roma è superiore, nettamente superiore al Bayer Leverkusen. Il problema è non prendere certe scopole come l'anno scorso, quando vai a affrontare il Barcellona, come è successo con il Bayer la stagione passata, e quei sette gol che ha preso la Roma poi hanno condizionato un pochino il periodo, perché certe mazzate poi nella terza dei giocatori rimangono, l'autostima crolla, la presunzione con la quale la Roma ha affrontato l'anno scorso i tedeschi non deve essere riportata pari pari quest'anno contro il Barcellona. Devi andare a fare una gara per chiudere gli spazi, coprirti e non pensare di giocartela con gli spagnoli, perché altrimenti sei finito un'altra volta. Questa è la gara delicata dal punto di vista psicologico, poi se la perdi è più che normale, mentre il Bayer, come dicevamo, è assolutamente battibile, soprattutto fuori casa loro mi sembrano che abbiano una consistenza minore, e la Roma deve puntare nettamente al secondo posto, ma può farcela. Io sono pronto a scommettere che la Roma è una squadra maturata rispetto all'anno scorso, Dzeko è un giocatore di livello internazionale che davanti l'anno scorso non c'era, e potrà dare sicuramente tanto se messo nella condizione di giocare e di sfruttare le sue caratteristiche. Quindi insomma, la Roma è andata abbastanza bene questo sorteggio, anche perché poi incontrare il Barcellona ti dà sempre una motivazione in più, anche dal punto di vista, poi se vogliamo parlare di economia applicata al calcio, anche un bel incasso te lo fai, e quindi quando affronti certe squadre è sempre bene, ti abitui. È chiaro, se ne avessi avute due di quel livello lì sarebbe stato, però il sorteggio ti ha dato una mano, bene così per la Roma. Sì, partendo dalla terza fascia era difficile chiedere meglio. 800 24 00 24, cominciamo a salutare Domenico da Palermo. Domenico. Ciao, ciao. Eccoci. Allora, intanto complimenti per la trasmissione, perché è veramente molto bella e molto ti fa riflettere tantissimo. Grazie, ti fa capire quello che tante volte non è, i tifosi non riescono a comprendere. No, niente, io semplicemente dicevo questo. Io credo che uno dei problemi fondamentali ogni anno è la partenza. Nel senso che, come è successo l'anno scorso con Napoli, quest'anno con la Lazio, cioè noi siamo sempre un passo più indietro rispetto alle altre, e adesso quindi incontrare già squadre che già hanno iniziato il campionato sicuramente sono più calde rispetto a noi, è un problema. Infatti l'ha pagato la Lazio col Bayer, perché poi per il resto credo che se entriamo subito in regime di riuscire a metterci in campo subito e affrontare con le partite anche con, sì, con per una volta, Domenico, non siamo quelli che hanno fatto peggio. Gli inglesi ad esempio ne hanno perse due nei preliminari di Europa League, il West Ham, il Southampton, notizia che, lo abbiamo detto, ci fa grande piacere, e quindi il problema dell'inizio della stagione è un problema che ci trasciniamo tradizionalmente da anni, però condividiamo anche con altri, anche gli spagnoli partono come noi e poi ai preliminari vanno avanti comunque. Per chiudere, Enzo, chi rischia di più domenica tra Roma e Juve? Tutte e due, se dico banalmente tutte e due, perché dopo la prima giornata la Juve deve rifarsi subito, la Roma credo in casa... più la Roma, però, per questioni ambientali. Ma sì, appunto, stavo arrivando proprio a questo, all'Olimpico, alle questioni ambientali. La Roma è piaciuta pochissimo, anche se ha strappato questo pareggio, però deve giocare in maniera diversa, soprattutto, come dicevo prima, deve cambiare anche modo di giocare, perché io non credo che con questo 4-3-3, due esterni larghi che non aiutano il gioco di Dzeko, deve cambiare un po'. Garcia è diventato troppo prevedibile, la Roma gioca come l'anno scorso e come due anni fa. Io mi aspettavo qualche variante, almeno a partita in corso. Se la Juve ha capito come gioca la Roma, e l'ha capito di sicuro, può fare il colpaccio. Però questa Juve mi sembra un pochino indietro, troppe assenze. Se metti Padoin, con tutto il rispetto di Padoin, al posto di Pirlo, se hai qualche dubbio, sì, una partita io penso che abbiamo visto una Juve finta fin qui, non è detto che quella vera sia uguale a quella dell'anno scorso, ma molto deve cambiare tra infortuni e mercato. Qualcosa abbiamo visto già questa settimana, certo. Qualcosa vedremo nelle prossime ore, a partire da Draxler. Poi ci sono degli amici che dicono questa è la vera prima Juve di Allegri, fin qui ha vissuto sulle spalle di Conte, hanno scritto al 349 238 6666. Io non so se sia così, non so nemmeno se con Roma Juve di domenica si vinca lo scudetto. Penso che qualcuno, se dovesse uscire male, potrebbe cominciare a perderlo. Questa credo sia l'etichetta, sia il titolo per Roma Juve di domenica. Enzo, ti saluto, che poi vado sul mercato. Grazie a te. Grazie a voi, a presto, buon pomeriggio, ciao. Grazie Enzo Bucchioni, mercato. Marchisio, si muove Tevez, il lancio per lui, c'è Llorente regolare, tutto solo Llorente, il dribbling è Llorente, è rete, è Llorente, e la Juventus è in vantaggio, sblocca la partita al quarto del secondo tempo, contropiede micidiano. Sapendo di affrontarlo, l'avreste lasciato andare a parametro zero a un vostro avversario di Champions? Ma assolutamente sì, ci mancherebbe. Non dobbiamo, come dicevo prima, fermarci davanti a queste considerazioni. Sono considerazioni, a mio giudizio, un po' stucchevoli. La vittoria e la sconfitta non dipendono da questi particolari, ma da un insieme di dinamiche e di fattori, e quindi credo che il buon Fernando non sia assolutamente determinante né da una parte né dall'altra. Penso che Marotta sia candidato a vincere il premio Pinocchio dell'estate. Saluto Alfredo Pedullà, Sport Italia. Ciao Alfredo. Buon pomeriggio a voi. Glielo diamo il premio, glielo diamo. Ma i premi li diamo alla fine. Adesso ti dico la sincera verità, anch'io però sotto certi aspetti, se si è deciso di darlo al Siviglia, lo dai, indipendentemente da un sorteggio. A me una domanda così non piace troppo, con tutto il rispetto per chi fa queste domande. Però è una scelta che hanno fatto, magari opinabile, perché potevi fare una plusvalenza, il popolo Juve si è spaccato. Io credo che la Juve debba adesso andare avanti per cercare di fare quello che deve fare entro 4 giorni, e qualcosa sta facendo. Sì, io credo che la riga sul mercato della Juve la tiriamo alle 23.01 di lunedì sera. Ma non è una banalità, è ovvio che per tutti tiriamo la riga alle 23.01 di lunedì, ma la Juve deve esserci un progetto, perché altrimenti tante cose non si spiegano. Anche Zaza e Coman che tornano, vanno sul mercato, non si capisce. Togliamoci subito il dente. Quanto è più vicina o meno vicina la Juve da Draxler in queste ore? Siamo alla non stop, siamo davvero a oltranza. Malgrado le smentite di Marotta, che dice un'operazione difficile, sicuro un'operazione difficile, perché non è un'operazione semplice, quando tratti con i tedeschi sa di essere sempre in salita, però siamo non stop e credo che ci siano dei margini importanti. In questo momento Witzel è sullo sfondo, però il mercato è che tra un'ora succede di tutto. Vedi Mekhtes ieri, da un'ora all'altra, da un minuto all'altro, da 10 minuti a 10 minuti. Ti dico che però la vicenda Mekhtes non è ancora chiusa. Sì, però altra vicenda strana che porta a chiedere cosa succede al Milan se la proprietà per due volte in due mesi deve schierarsi per tenere in rosa un giocatore. Potremmo andare avanti, potremmo andare oltre, potremmo comprendere De Jong, Balotelli, potremmo fare un documentario, uno stop, uno speciale, quello che tu vuoi. Sinceramente sono scelte incomprensibili. Dicevo di Mekhtes perché ha rinnovato e non doveva rinnovare. Adesso non metti il virgolettato a Mihajlovic, non mi permetterei. Però la strada era quella. Ha rinnovato, non gioca, e la proprietà dice che deve restare. Bisogna soltanto capire quale sarà l'ultima decisione e la volontà di Mekhtes, perché magari resta e a gennaio va via. Perché se tu non giochi e un altro ti offre il posto, la possibilità di giocare, la proprietà è dalla mia parte, ma l'allenatore ancora no, e quindi questa è una partita spaccata in due. Invece siamo forse arrivati finalmente alla fine del tormentone Perisic. Sì, siamo a 3.000 puntate all'inizio, quindi speriamo di non fare 3.050. Io penso che lui stia aspettando il via libera. Dalle ultime informazioni siamo quasi davvero stavolta allo scambio dei documenti sulle modalità di pagamento. Sotto questo aspetto l'Inter è stata molto brava. Aspettiamo i titoli di era una priorità, hanno mantenuto la priorità, faranno un'altra punta. Eder è nel mirino, ma Ferrer è molto combattuto. Tra l'altro l'Inter non offre i 12-13 milioni che chiede la Samp, offre molto meno, vorrebbe inserire contropartite tecniche. Borini piace in Inghilterra ma aspetta ancora l'Inter. Il Watford ha fatto una proposta, ma lui spera ancora di andare all'Inter prima di dire sì al Watford. Quindi due attaccanti li faranno. Siqueira è la soluzione più probabile se uscisse Juan Jesus, quindi un difensore esterno per un laterale sinistro, per un difensore centrale, che nelle considerazioni dell'Inter almeno uno tra Juan Jesus e Ranocchia dovrebbe averti. Sì, Ferrero che oggi dice su Twitter: basta notizie false su Eder che destabilizzano la squadra. Ma mi viene da sorridere. Ferrero, che era lo stesso che aveva detto che erano tutte palle, che il giorno dopo sarebbe andato a Forte dei Marmi a parlare con Galliani. Ha incontrato Soriano, ma potremmo andare avanti anche con la storia di Cassano. Io credo che Ferrero, più che smentire su Twitter o confermare, dovrebbe dare delle garanzie di possedere la Samp. Punto. Tutto il resto sono delle sciocchezze che posso dire io, e quindi cerco di dirne il meno possibile, però non conta quello che tu fai. L'incontro con l'Inter l'hai programmato e lo farai. Poi se devi trovare una via di fuga la puoi trovare diversamente. Contano i fatti. Pensiamo a capire l'eventuale potenziale sostituto se dovesse andare via Feder. Questo interessa di possedere la Sampdoria. Tifosi del Napoli che scrivono al 349-238-6666: quando se ne va De Guzman, che significa quando può arrivare poi un nuovo mediano? Non se ne va. Perché gli hanno detto di andare a tutti i costi al Sunderland. È un po' come i bamboccioni italiani che non se ne vanno di casa. Quando poi dici devi andare a tutti i costi lì, il diretto interessato frena, si mette di traverso sull'autostrada e aspetta. Quindi questa è una storia, salvo sorprese, da domenica sera a lunedì. Al momento lui al Sunderland non ci vuole andare, e quindi sotto questo aspetto dobbiamo aspettare. Copione comune a tante altre trattative in quest'estate, in cui l'altro copione è quello dei prezzi folli, ad esempio io credo i 15 milioni che il Napoli chiede per Koulibaly, 15 che viene valutato Vecino, mi sembra di sognare se torno indietro di qualche Vecino, mese. Mi sono svegliato con l'incubo, con tutto il rispetto per Vecino che è un buon giocatore, la Fiorentina magari sta aspettando che arrivino a 15 per alimentare gli ultimi giorni del mercato in entrata, però sulle valutazioni quest'anno, in questa sessione, negli ultimi tre mesi almeno abbiamo una ventina di esempi, non soltanto in Italia, che ci fanno riflettere. L'inquietudine più che la riflessione emerge, però è normale pensare che quando tu hai un allenatore che ti chiede Tizio come prima scelta, non puoi prendere gli altri e lo accontenti. Poi il problema sarà degli allenatori, noi potremmo anche citare tanti altri casi, perché io oggi mi sarei aspettato, ed è da un'altra parte, Shaqiri titolare con la maglia dell'Inter, perché a gennaio sembrava il nuovo non so chi per l'Inter, ci avrebbero dovuto puntare per... Era l'uomo del progetto, l'uomo, il simbolo, il progetto, che l'Inter tornava a investire. Esatto, Giovanni, ma il progetto ormai è una parola talmente abusata che farebbero bene a dire prima prendo Shaqiri e spero di puntarci. Infatti, ormai questa è una storia che fa parte del passato, sembra una storia di 4 anni fa, eppure una storia di 6 mesi fa. L'abbiamo resettata perché oggi il calciomercato è così. Sì, questo è un calciomercato delle inversioni a due. Tu hai parlato di Mexès, potremmo citare Ranocchia che ha rinnovato a giugno e adesso è sul mercato, Nagatomo che prima era sul mercato e forse rinnova, la vicenda di Zaza alla Juventus. Io però ho 30 secondi prima della borsa, se no mi tagliano. Due domande veloci: la Fiorentina chi piglia? Ale, la scritta. La Fiorentina c'ha un discorso aperto ancora con Mexès, secondo me c'ha nel mirino un difensore del Manchester City che si chiama Ben Ayer, e c'è l'approvazione, il placet di Paolo Sosa, c'è concorrenza, ci provano. E l'altra è sui Turbe, va al Genoa al 90%. Il 10 è la resistenza di Turbe, ma la Roma ha deciso. Grande colpo se va al Genoa per il Genoa. Grazie Alfredo. Grazie a voi, buon pomeriggio, buon lavoro. Grazie ad Alfredo Pedullà. 800240024, vi ricordo domenica, non fino alle 19 tutti convocati weekend, ma dalle 17 alle 20, perché seguiamo insieme Roma-Juventus. Volete intervenire durante la partita? Potete già prenotarvi adesso al centralino 800240024 e dite: voglio essere richiamato domenica, borsa. Torniamo subito. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Che dire, arieccici. Tutti convocati. Non ci si può dire se si è fatto qualche passo avanti per Persi? Stiamo lavorando, poi ci rivediamo domani. Fiducioso quindi? Un po' di fiducia, ci vuole sempre. Rimane qui a Monte Carlo quindi? Ci fermiamo ancora un po' a lavorare, sì. Ciao. Ottimista. Buonanotte, cauto ottimismo. Buonanotte ragazzi. Stiamo lavorando e ci sono tante soluzioni sul tavolo, quindi è difficile dire quello che potrà andare in porto o meno. Sicuramente in questo momento non siamo in grado di dire quello che potrà accadere. Credo allo stesso tempo che una squadra come l'Inter debba avere più soluzioni, che in questo momento non abbiamo, anche numericamente, e avere più soluzioni nella fase offensiva, quindi poter giocare un 4-3-3 con Rombo, un 4-3-3 con due ali, non cambierebbe assolutamente niente. Sono molto felice, molto contento. Sono stati due mesi di trattativa, però sono veramente contento. Palermo perché era da un mese e mezzo che avevo dato la parola al presidente ed è stata l'unica squadra che veramente è concretamente arrivata. Sto bene perché da tre mesi che lavoro e lavoro davvero forte, quindi sto molto bene, però deciderà poi il mister. Ai tifosi cosa vuoi promettere? No, grande impegno e adesso devo pensare solo a lavorare e basta. Passone, Mancini, Gilardino, riassunto sonoro delle ultime ore di mercato. Saluto Roberto Renga, ciao Roberto. Buongiorno a tutti. Adesso parliamo della Lazio, ma ti faccio sentire Mihajlovic che ha appena annunciato, sta parlando in diretta, questo è preso da Premium Sport, ha appena annunciato che Kučka e Balotelli sono convocati con l'Empoli. Giorni per ritrovare la condizione migliore, per allenarmi al meglio e metterlo in difficoltà. Questo è Montolivo. Mi sa fare scelte perché crede che siano quelle migliori per vincere la gara. Il bene del singolo va sempre messo da parte rispetto al bene del gruppo, questo sempre e comunque, quindi detto questo accetto le scelte del mister e ripeto, cerco di dare il 100% ogni giorno per convincerlo che posso dare il mio contributo. Detto questo, vediamo dove sarà Montolivo alle 23.01 di lunedì sera, Roberto, perché qualche dubbio lo conservo. Sta cercando di spiegare quello che era scritto oggi sui giornali, cioè che lui non è contento di essere passato dal ruolo di capitano al ruolo di panchinaro. Cosa successe anche a Ranocchia, cosa successe in parte a Totti, è uno dei temi di questo inizio di stagione, no? Sì, succede sempre per motivi diversi, no? Tra i tre che abbiamo citato. E Montolivo sa bene di non essere velocissimo, però sa anche di essere probabilmente l'unico nel centrocampo del Milan in grado di lanciare la palla. Però se un problema ha, un vuoto ha il centrocampo del Milan, è quello della leggerezza. Probabilmente può essere più utile Kučka, anche se io personalmente mi aspettavo un colpo di coda tra Preziosi e Galliani, dico qualcosa combinano anche quest'anno, però devo dire che Kučka è un buon giocatore, non è un fenomeno, è un anarchico, ma è il giocatore di peso che forse è servita. Sì, scelta che evidentemente non ha soddisfatto i tifosi del Milan, poi vedremo domani sera quale sarà la reazione. Ripeto, Balotelli convocato subito per Milan-Empoli, disponibile, ha detto Mihajlovic si è allenato con gli altri e quindi non c'è motivo per cui non sia disponibile. Scelta io credo anche abbastanza scontata quella di inserirlo immediatamente. Ma mi sembra anche una scelta mercantile, nel senso che magari ci sarà qualche tifoso in più che va lì a vedere la partita e muore dalla voglia di vederlo. E magari Sinisa pensa di poter chiudere la partita con l'Empoli presto e poi poter assaggiare le condizioni fisiche di Balotelli, che sono sconosciute a tutti. Mentre Kučka è uno che sta bene, ha giocato l'ultima partita con Genova, quindi è in grado assolutamente di giocare e di rispondere alla convocazione. Cosa ti aspetti da Roma-Juve di domenica? Ripeto, la seguiremo in diretta con uno speciale dalle 17 alle 20 con tanti ospiti, con la diretta dallo stadio, con, se vorrete, anche il vostro intervento 800 24 00 24. Se sapete che domenica siete davanti alla TV a seguire la partita, volete parlarne con noi, potete già prenotarvi 800 24 00 24. Io dicevo prima, etichetta di questo Roma-Juve: non si vince il campionato alla seconda, ma visto come è andata fin qui qualcuno potrebbe cominciare a perderlo. Forse sì, è anche vero che tradizionalmente chi parte male difficilmente vince il campionato, chi perde la prima per esempio. Io non lo so se ci sono precedenti di una squadra che perde per esempio la prima partita in casa e poi vinca il campionato, non credo. Non succede dal 1976. Insomma, ecco, ma già andiamo proprio, non eravamo nati. Questa arriva alla seconda giornata, chiaramente è troppo presto e si affrontano due squadre incomplete, non pronte, non preparate. Abbiamo visto la Roma che a Verona ha faticato molto e la Juventus che ha faticato un po' meno, ma poi all'unica occasione dell'Udinese ha preso il gol in casa. E adesso si stanno rafforzando, stanno cambiando e sicuramente diventeranno anche più forti a livello atletico. E diciamo che il campionato comincerà dopo la sosta, però intanto si gioca. Se pareggiano, per esempio, che è il risultato più probabile, no? Se pareggiano, ebbene Roma e Juve già rischiano di vedere il vertice della classifica dal basso. Quindi non è decisivo, ci mancherebbe altro, però può influire anche sul morale. Sì, ha una certa importanza. Poi ti chiedo cosa succede alla Lazio invece dopo l'eliminazione. Ci sono Alessandro da Latina e Sergio da Brescia. Alessandro. Salve, grazie di avermi chiamato. Ciao a te. Soltanto una cosa, volevo ribadire per concetto per quanto riguarda il girone della Champions. Sono un tifoso juventino, premetto. Io sono contento invece che abbiamo preso un girone così di ferro, per il semplice motivo perché dobbiamo subito misurarci con squadre capaci, abili, forti. Anche perché su questo dato che comunque vediamo quant'è la nostra forza, cercare magari di dire, è vero, in semifinale potremmo trovare delle squadre che fanno una serie di questioni, di fortune, e riesce a superare i turni, però penso che una squadra forte la deve dimostrare essere forte poi con i forti. Tutto questo volevo dire. Io sono d'accordo con te Alessandro, posto che questa Juve non è quella dell'anno scorso, non lo è ancora almeno, poi alla fine del progetto sarà più forte di quella che è arrivata fino a Berlino. Oggi di sicuro è una squadra incompleta e forse un sorteggio più morbido, oltre che meritarselo, perché era pur sempre testa di serie, l'avrebbe credo aiutata ad entrare in maniera un po' più soft, Roberto. Sì, no, penso anch'io. Adesso mi sembra che il tifoso di Latina sia molto ottimista, perché io credo che rivoluzioni come quelle che si sta facendo la Juventus, un po' per obbligo, un po' per amore, un po' per forza, e che richiedano comunque del tempo. Intanto ci sono due giocatori appena arrivati che devono ancora inserirsi, un altro almeno deve arrivare e poi deve crescere un po' la condizione e anche la conoscenza tra i vari giocatori. Molti sono i giovani. Io penso che invece sarebbe stato molto meglio avere un girone indolore. E la Juve ha abbassato molto l'età media e questo in Europa evidentemente significa che si corre il rischio di pagare dazio. Sergio da Brescia, Sergio. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie a te. Io volevo fare una constatazione che non sento fare e premetto che sono un manciniano, quindi sono molto contento che Mancini alleni l'Inter. E credo che i mezzi di informazione, i giornali sportivi recentemente si siano comportati non dico male nei suoi confronti, ma abbiano soltanto sottolineato i suoi demeriti. Partiamo dalla campagna acquisti di gennaio. Dunque a gennaio sono stati acquistati Chanton, che c'è ancora in rosa e gioca, Brozovic, che c'è ancora in rosa e gioca. E gli altri sono stati poi mandati via, Shaqiri, Podolski. Shaqiri, ma sì, ma però nessuno sottolinea il fatto che i manager inglesi hanno l'abitudine di acquistare un giocatore e se non lo soddisfa lo rivendono immediatamente per due motivi. Perché prima cosa, se riescono a riprendere i soldi che hanno speso per l'acquisto di gennaio, lo rivendono perché dicono... Sì Sergio, è tutto giusto, però hai ragione, alla fine anche l'operazione Shaqiri è un'operazione a saldo zero, però è evidente che l'impressione che è stata data è quella di un po' di schizofrenia, ma io l'ho detto prima, questo è il mercato delle inversioni a duce, le abbiamo citate, ce ne sono anche altre di storie di questo genere. Roberto, ti chiedo 30 secondi di pazienza, c'è il traffico, poi mi dici chi ha più colpe tra Lotito e Pioli per l'eliminazione della Lazio, traffico. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Tutti convocati. Penso che hai capito che è arrivato il periodo di diventare uomo, non bambino. Adesso l'ha detto e io mi aspetto da lui di mantenere tutto quello che ho detto, ecco. Poi. Questo Mihajlovic su Balotelli, ripeto, convocato per la partita di domani sera San Siro Milan-Empoli. Roberto Renga, chi ha più colpa tra Lotito e Pioli? Allora, intanto volevo dire che farò un gran tifo per Balotelli, con l'età sto diventando romantico, quindi questo nuovo matrimonio mi piace. E io penso che Ma io immagino che anche a Coverciano siano pronte le bandiere per tifare Balotelli. Ne abbiamo bisogno tutti, di un attaccante, perché in questo momento non esistono più né difensori né attaccanti e forse neppure centrocampisti. Allora, io penso Pioli, perché comunque Pioli era d'accordo con l'operazione mercato fatta da Lotito, perché riteneva che partire con la squadra dell'anno scorso sarebbe stato un vantaggio. Io penso che alla Lazio servissero un centravanti, faccio per dire il nome di Huntelaar, uno che mette la palla dentro, e un terzino sinistro. A Pioli però è andato tutto bene così. Poi cosa è successo? Un precampionato allucinante anche come organizzazione. Non si è capito dove si è preparata la Lazio, a Shanghai, nell'umidità, a 40 gradi, non lo so. E certo non si è preparata bene, tanto che non sta bene fisicamente, e nella partita decisiva Pioli non ha giocato. In Europa bisogna giocare, non ti puoi presentare con 7 difensori, difesa 5, più Onazzi e più Parolo. Sì, c'è stato qualche errore evidente l'altra sera, Leverkusen, c'è anche l'alibi degli infortuni, che è un alibi non da poco, c'è anche quello che ha detto Pioli, secondo me, cioè la Lazio forse non era pronta a quel tipo di confronto, la dimensione della Lazio un'altra, purtroppo anche la dimensione del calcio italiano un altro, purtroppo per fortuna se ne siamo consapevoli e magari andiamo a toglierci qualche soddisfazione come è successo l'anno scorso, magari se cerchiamo di crescere. Io, Roberto, prima di salutarti ti voglio far sentire una cosa che io ho visto stamattina e ho trovato surreale. Si discute del nuovo stadio di Udine, l'Udinese ha trovato uno sponsor per dargli il nome, non facciamo il nome dello sponsor, grande polemica perché ci sarebbero alcuni accordi per non togliere Friuli dalla denominazione dello stadio. Sentite Pozzo oggi: cerchiamo di essere rispettosi della cronaca e dire la verità, non strumentalizzarsi per vendere 4 copie in più. L'avevo detto, se avete bisogno di migliorare, diciamo, il livello di non so, statistico, ve le comprerò io a titolo personale, dai, ce la faccio ancora. Questo è Pozzo contro i giornalisti, l'hanno accusato di profanare le vittime del terremoto del 76, ha detto anche trovare i fondi per fare lo stadio nuovo è stata l'impresa minore, peggio sono stati 10 anni di burocrazia, insomma un fiume in piena, questa è l'Italia 2015, l'Italia del calcio. Sì, no, capisco. Allora, io intanto devo dire che Pozzo secondo me ha fatto un capolavoro con lo stadio del Friuli, chiamiamolo Friuli per carità, perché è riuscita a giocare sempre le partite, nel frattempo a farlo e spendendo molto poco, e adesso da quello che ho visto lo stadio è veramente bello. Si discute sul nome, è vero che il Friuli è legato al terremoto, il nome di Friuli, però secondo me una soluzione si può trovare, si può unire quella dello sponsor e unire anche Friuli. Ma in ogni caso, in un'Italia in cui non c'è una società che spenda i soldi delle televisioni per fare gli stadi e vogliono tutti delle città in cambio, eccetera, eccetera, ben venga un'operazione come quella di Pozzo. Questa è la mia opinione. Sì, sottoscrivo. Ciao Roberto, ci sentiamo domenica. Buon lavoro. Ci sentiamo domenica, anche Roberto Renga ci sarà nello speciale 17:20 su Roma Juventus, aperto anche a voi 800 24 00 24, se vi volete prenotare per essere richiamati mentre guardate la partita in TV e ascoltate noi, chiamate già adesso 800 24 00 24. Cosa facciamo? Parliamo mondiali di atletica? 4 e 6 le corsie, Gatlin Volt e poi il resto del mondo. Gran partenza di tutte e due i grandi, Usain Bolt più avanti rispetto a Justin Gatlin, l'uscita dalla curva, Bolt avanti, Gatlin a fianco, Bolt Gatlin, Bolt Jamaica, Gatlin americano, va via Usain Bolt, è il più grande di sempre, adesso Gio Butuano è terzo, salvo rimonta di Alonso Edward, 19:56, toglie Usain Bolt a Justin Gatlin anche il miglior risultato al mondo di quest'anno. Non male è Bolt per essere uno che era andato a Pechino per consegnarsi all'abdicazione da re della velocità. Nicola Roggero, ciao. Buongiorno a te gli ascoltatori. Non male. Beh, parliamo del numero uno, lo diciamo, sì, di tutti i tempi, sì, possiamo dirlo? Per carità, io sono sempre contrario a queste statistiche qui, perché ovviamente sono belle queste discussioni, perché tutti hanno ragione, non potendo comparare epoche diverse, atlete che non si sono incontrati. Non si può nemmeno dire il più grande dell'atletica, perché l'atletica è fatta di tante discipline, ognuna molto diversa dall'altra. Proviamo allora a rimanere nel campo della velocità, che tutto sommato è la prova più affascinante. Io dicevo ieri anche negli studi di Sky Sport 24, che mai nessun atleta, nessun velocista al mondo è rimasto ai vertici tanto come Bolt. Dal 2008 al 2000 Olimpiadi di Pechino, al 2015 passando per Olimpiadi di Londra e quattro edizioni di mondiali, non ha mai perso sul 100-200. L'unica volta che ha perso è perché non ha corso per la squalifica ed Edegu nel mondiale del 2011 sui 100. Soltanto Carl Lewis ha una costanza così lunga ai vertici, perché vinse nell'83 i 100, nell'87 per squalifica di Ben Johnson e nel 91. Però nel frattempo, per esempio, Lewis aveva abdicato sul 200. Quindi mai nessun velocista è stato così costante. Poi, sì, per fare una battuta, per non farlo vincere, o non lo si deve far partire come Daegu, o bisogna fare come ha fatto il cameraman cinese ieri dopo la fine della gara. Cameraman, sottolineo che è un uomo fortunato, che Bolt non si è fatto male, perché altrimenti sarebbe passato alla storia. Credo che l'assicurazione su Bolt sia più o meno il debito pubblico della Grecia o che croce, perché sono le gambe più preziose del pianeta, ha passato veramente dei brutti 5 minuti. E peraltro Bolt in quella circostanza ha dimostrato la sua grandezza, perché un altro avrebbe messo le mani attorno al collo a quel povero Carmen. Lui non solo non si è arrabbiato, ma è andato da lui a sincerarsi che non si fosse fatto male. È stato davvero carino. È incredibile come questo ragazzo, che davvero non può muovere un passo fuori di casa sua senza venire assaltato da tifosi, curiosi, conoscenti, gente che chiede autografi, fotografie, selfie, eccetera eccetera. È incredibile la sua disponibilità con tutti, ha veramente sempre un attimo per chiunque. Sì. Anche sotto questo punto di vista è il numero uno. Personaggio particolare, poi particolare che oggi sui giornali di tutto il mondo, su tre quarti delle prime pagine, non ci sia l'immagine di Bolt che vince, ma quell'immagine lì. Ah, mamma mia! No, questa poi no. Pazzesco. Zoppica un po', è stato investito dal cameraman. Zoppica un po', ma siamo convinti che farà la staffetta, vero Nicola Roggero? Sì, sì, sì, farà la staffetta. Ecco, proprio la staffetta, mi serve per dire una cosa. Tanti parlano di Bolt come di uno dotato da madre natura. Certo, ci mancherebbe altro che non sia merito di mamma e papà Bolt. Sì, non è scarsino fisico. Di fisico. Ecco. Però è anche vero che uno che lavora con una grande serietà, lo dimostra il fatto che lui è diventato un centista, lui è sempre stato un duecentista, è diventato un centista avendo lavorato molto sulla partenza, che ovviamente essendo lui nel 96 era il suo punto debole. E altra considerazione, la staffetta, che è molto complicata, dove spesso si sbaglia, i giamaicani dal 2008 non sbagliano una gara, non hanno una squalifica, quindi vuol dire che sono ragazzi che lavorano con grande applicazione. E riuscire a ricevere un testimone da uno che corre in meno di 10 secondi 100 metri, vuol dire ricevere il testimone da uno che in quel momento lì ha una velocità valutabile intorno ai 42-43 orari. E quindi è come prenderlo da uno scooter lanciato. Il fatto che i giamaicani non sbagliano mai vuol dire che certo, ma madre natura ha fatto il suo dovere, ma loro ci mettono anche tanto tanto lavoro. Sì, sono una scuola assolutamente meravigliosa. Non so se Bolt chiude la stagione a Pechino o se poi avremo modo di vederlo nella Diamond League. Assolutamente, lo vedremo in Diamond League e lo vedremo su Fox, quindi approfitto per fare pubblicità all'emittente per cui lavoro. Lo vedremo su Fox, lo vedremo nelle finali di Zurigo-Bruxelles, chissà magari anche Berlino con l'altro meeting che Fox trasmette, quindi insomma tutte le rivincite le vedremo su Fox, quindi ci facciamo la bocca buona, anche perché non c'è solo Bolt. Ieri c'è stata una grande giornata con la Vlodar che ha sforato il mondiale del martello, e soprattutto il grande Christian Taylor, che è andato a 8 centimetri dal battere il record straordinario di sua maestà Jonathan Edwards nel triplo, per cui ne vedremo ancora delle belle sia questi mondiali che nel finire della stagione dell'atletica. Sulla spedizione italiana, meglio stendere un velo pietoso, siamo aggrappati a Tamberi che è in finale oggi, marcia femminile Rigaudo e Giorgi squalificate in modo strano, ma qui bisognerebbe chiedere ai tecnici che cosa è successo. Il saldo è che difficilmente avremo una medaglia se non ce la regala Tamberi. Sarà molto dura anche per Gianmarco, perché oggi ho visto oltre a Barshim e Bondarenko che erano i favoriti, anche un grandissimo Druin, che è un ragazzo canadese, il Canada è la vera rivelazione di questi mondiali, e quindi sarà molto dura. Per carità, Tamberi un agonista, pativa molto alla gara del mattino, oggi infatti non è stato brillante, però l'importante è essere in finale. Sarà già importante ottenere un piazzamento, peccato che non ci sia anche Marco Passinotti, che purtroppo ha dovuto dare forfait. è davvero l'alto in questo momento. Considerando che abbiamo anche Silvano Chesani, la medaglia d'argento agli ultimi europei indoor, che attualmente sta recuperando dopo un intervento, è davvero l'isola felice in un'atletica italiana molto molto infelice, molto molto triste. Pensando che tra un anno saremo qui a parlare di Rio 2016, viene onestamente un po' di magone, viene il mal di testa. Grazie Nicola. Grazie a voi, un salutone. Grazie Nicola Roggero. Mondiali che chiudono domenica. Domenica c'è anche il Gran Premio di Silverstone Moto. Per prima cosa bisogna cercare di andare forte come Lorenzo, perché da dopo la pausa lui è tornato più in forma di prima e in queste due gare mi è sempre arrivato davanti. Saranno importantissimi gli scontri diretti. Chi riuscirà a vincere gli scontri diretti, arrivare davanti, e riuscirà a vincere il campionato. È importante una pista che ti piace, sempre sei più convinto e dopo i tempi, quando vedi i tempi normalmente sul giro, sei più veloce con una pista che magari fa un po' di fatica, come nel mio caso Germania, no? Allora, importante quello, però mai si sa, ogni anno è diverso e le circostanze possono cambiare. E anche in questa pista è molto importante l'aspetto della pioggia o non pioggia, perché questo può cambiare molto la storia del weekend. Questi Rossi e Lorenzo, i duellanti, ne parliamo domenica, a partire dalle 17, quando il Gran Premio di Silverstone si sarà consumato. Quando ci sarà l'ultima ora verso Roma-Juventus, tutti convocati weekend, che sarà dalle 17 alle 20, speciale proprio per la partita da vivere insieme. Aspettiamo anche voi, dalle 17 alle 20. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domenica alle 17. Ciao. Arrivederci ragazzi, ciao.